Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro, Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana. Siamo arrivati al capitolo quarto e stiamo alla luce della Bibbia e della dottrina della Chiesa, stiamo cercando di comprendere chi è il maligno nella sua natura. Abbiamo visto che Dio non ha creato il maligno, ha creato gli angeli, alcuni dei quali si sono ribellati a Dio pervertendo se stessi. Quindi è l'uso della libertà degli spiriti creati che ha generato nel mondo il male. Abbiamo visto anche in che cosa consiste il peccato degli angeli, l'abbiamo già illustrato, consiste appunto nell'aver questi spiriti creati, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, con libera scelta, radicalmente e irrevocabilmente rifiutato Dio e il suo regno. Allora noi oggi siamo al capitolo quarto, che è il nostro libro, siamo a pagina 26, e noi oggi cerchiamo di descrivere appunto il demonio in ciò che lui è, nella profondità del suo essere, da quando ha pervertito se stesso. E noi abbiamo colto due aspetti della natura pervertita del maligno, e cioè il suo odio inestinguibile nei confronti di Dio e la sua gelosia e quindi la sua ferocia nei confronti dell'uomo. Per quanto riguarda l'odio contro Dio, abbiamo già accennato nel primo paragrafo del capitolo quarto, e abbiamo già accennato che questo odio contro Dio è nato dalla gelosia di non essere lui Dio al posto di Dio. E abbiamo detto che Satana è divenuto tale, vi leggo un brano del paragrafo precedente, quando non ha accettato quell'umile sottomissione al Creatore che lo avrebbe dischiuso a un rapporto di infinito amore. Cioè, mentre gli altri angeli si sono sottomessi a Dio e hanno accettato la sua supremazia, hanno accettato la dipendenza da Dio, e in questo modo hanno superato la prova e sono stati ammessi alla visione beatifica, invece in Lucifero si è generato la gelosia di non essere lui Dio al posto di Dio, e quindi ha rifiutato Dio, si è ribellato a Dio. Il superbo non tollera che ci sia un Dio sopra di lui, non accetta di dipendere e rifiuta di servire. Ecco, cari amici, volevo ricordare, per esempio, chi di voi si ricorda quando lo abbiamo illustrato, quando parlavamo dell'Anticristo, no? Come anche solo Wioff, nel suo racconto L'Anticristo, descrive appunto il pervertimento di questo, cioè in che modo l'Anticristo diventa Anticristo, descrive il suo pervertimento nel momento in cui si accende di gelosia nei confronti di Cristo e vorrebbe essere lui il salvatore del mondo al posto di Cristo. Quindi un'intuizione profondissima. Satana è diventato tale perché non tollerava che ci fosse un Dio sopra di lui, quindi non accetta di dipendere e rifiuta di servire, e in fondo questo, cari amici, è anche il veleno che ha nel suo ventre il mondo moderno, che vuole costruire se stesso senza Dio. Che cos'è l'ateismo programmato, l'ateismo conclamato, se non il rifiuto dell'uomo di dipendere, se non il rifiuto dell'uomo di servire? Anche l'uomo ha ricevuto nelle sue vene il veleno satanico e vuole essere Dio al posto di Dio. Quindi sia Satana sia l'uomo, morsicato a serpente, se potessero eliminare Dio lo farebbero. Satana, non potendolo cancellare, non avendo la possibilità di distruggerlo, la voglia di Satana di distruggere Dio lo vediamo nella passione, quando appunto cerca di eliminare, di togliere Cristo da questo mondo distruggendolo. E Satana è il grande regista della passione, come ci insegna San Giovanni, che dice che Giuda entrò in Satana, che Satana entrò in Giuda. Quindi, non potendolo cancellare, non avendo la possibilità di distruggerlo, ecco che lo combatte con tutte le sue forze, opponendosi ai suoi piani e cercando di rendere vani i suoi disegni. Ecco dunque da cosa è generato l'odio contro Dio da parte del demonio. È generato dalla gelosia di non essere lui Dio al posto di Dio. Satana sa che Dio è Dio e che lui è soltanto una creatura. Ne è cosciente di questo, ma non l'accetta. Vorrebbe essere lui Dio al posto di Dio. Non essendo questo possibile, dal suo essere si sprigiona un odio inestinguibile. Ed è questo stesso odio che il serpente inietta nel cuore di molti uomini, i quali professano un ateismo di facciata, dicendo di non credere in Dio. Parlo di una certa categoria di uomini, non di tutti gli atei, perché non tutti gli atei sono uguali. Ci sono gli atei che cercano Dio, ma chi lo cerca l'ha già trovato, e ci sono gli atei che non sopportano Dio. Dicono di non credere in Dio, in realtà non sopportano che ci sia un Dio al di sopra di loro, dal quale dipendere e al quale rendere conto. Fanno del loro io qualcosa di assoluto, di insindacabile, di onnipotente. Dicono che Dio non c'è, ma in realtà lo odiano, lo combattono e lo bestemmiano. Ecco, cari amici, noi questo lo sappiamo, sappiamo che esistono uomini di questo tipo. Ebbene, Satana è il loro capostipite e comunica loro quell'odio implacabile che egli genera negli abissi della sua perversione. Quindi l'odio di Satana nei confronti di Dio è totale, inestinguibile. Questo odio noi biblicamente lo cogliamo soprattutto nella vita di Cristo, dove Satana cerca di opporsi a Dio in tutti i modi, cerca di far deviare Cristo dalla strada che il Padre gli ha tracciato, e cerca di incantarlo con un messianismo di carattere politico terrestre, di sedurlo con le ricchezze del mondo, cerca di insidiarlo con la seduzione, ma non essendoci riuscito a insidiarlo con la seduzione, allora persegue la sua distruzione attraverso appunto la sublimazione che lui fa dalle turbe dei capi fino a che Cristo non è stato eliminato, non è stato ucciso. Tutto l'odio di Satana nei confronti di Dio lo vediamo nella Passione di Cristo. La Passione di Cristo è un libro, diciamo così, nel quale, agli occhi di chi ha naturalmente alla fede, si può leggere tutto l'amore di Dio per noi, che si rivela nel cuore di Cristo, ma si può leggere tutto l'odio del maligno nei nostri confronti che si esprime nel cuore degli uomini, che sono posseduti da Lui, che sono lasciati irretire dal suo odio, dal suo desiderio distruggere Dio. Ecco, nella passione di Cristo c'è l'infinito amore di Dio, ma anche tutto l'odio del maligno nei confronti di Cristo. C'è il suo disprezzo, la sua sfida, la sua ferocia. Questo è evidente, cari amici, nella passione. Basta quella frase di Giovanni perché si sveli il dramma della passione dal punto di vista di Satana, cioè Satana entrò in Giuda. Però non è questo l'unico testo. Noi nel capitolo 12 dell'Apocalisse vediamo come Giovanni, o un suo discepolo, chi per lui, descrive il figlio nato dalla donna, mentre la donna partorisce il bambino, ecco che il drago infuriato cerca di divorare il bambino, di distruggere il bambino, e qui descritto tutto l'odio di Satana nei confronti di Dio, di Cristo che è Dio. Tutto l'odio di Satana è qui descritto. Satana entrò in Giuda, dice Giovanni con una notazione tremenda. E poi nell'Apocalisse abbiamo questa immagine eloquentissima del drago che apre la bocca per divorare il bimbo che nasce dalla donna vestita di sole. C'è tutto l'odio satanico nei confronti di Dio. Quindi Satana è innanzitutto l'avversario di Dio, è colui che odia implacabilmente Dio. È un odio implacabile, eterno. Odio implacabile ed eterno. È la natura del pervertito, l'odio implacabile ed eterno contro Dio è la natura del pervertito. E naturalmente noi vediamo questo... noi troviamo, diciamo così, conferma in questa chiave di lettura della natura del maligno, cioè colui che per gelosia odia Dio perché non è lui Dio. Non lo vediamo questo, cari amici, nella sete di adorazione che Satana ha. Satana vuole essere Dio al posto di Dio e vuole essere adorato dagli uomini al posto di Dio. Vediamo dunque questo secondo paragrafo del capitolo quarto del falsario, siamo a pagina 27. E questa sede di adorazione anch'essa è largamente testimoniata dalla Bibbia. E Satana vuole costituire un suo regno nel quale essere adorato. Lo vuole costituire qui su questa terra, ma evidentemente l'inferno è quel regno dove lui pretende la totale sottomissione, la totale adorazione. Dunque, l'odio di Satana nei confronti di Dio e delle sue opere è così solidamente testimoniato dalla scrittura e dalla tradizione spirituale che non è necessario spendere molte parole per dimostrarlo. Mi pare invece più importante cercare di capire le motivazioni profonde di un'avversione che ci farebbe morire di spavento se potessimo conoscerla anche solo in parte. Se noi conoscessimo, avessimo sentore dell'odio che Satana ha nei confronti di Dio, moriremmo di spavento. Il genio dell'autore dell'Apocalisse è riuscito a darci una suggestiva raffigurazione di quest'odio irriducibile, come vi dicevo già, nell'immagine dell'enorme drago rosso che si pone davanti alla donna mentre sta per partorire, per divorare il bambino appena nato. Ecco, cari amici, vorrei a questo riguardo sottolineare che nella Bibbia la lotta fra Satana e Dio ha delle accentuazioni che poi vedremo che vanno messe in evidenza, e cioè sia in Genesi 3,15, laddove Dio dice porrò inimicizia fra te e la donna, fra la sua stirpe e la tua stirpe, e la stirpe della donna ti schiaccerà la testa. Dunque, in questo brano della Genesi, come vedremo successivamente, vedremo questa lotta tremenda fra Satana e Cristo, non dimentichiamo che Cristo è Dio, quindi l'odio di Satana si concentra nei confronti di Cristo che è sceso qui su questa terra, perché Satana non può raggiungere Dio in cielo, lo può colpire qui su questa terra attraverso colpendo Cristo, colpendo i suoi seguaci, la Chiesa, no? Allora, cari amici, questa lotta fra Satana e Cristo deve essere vista, come ce la presenta la scrittura, come la lotta di Satana da una parte e Cristo e la donna dall'altra. Perché sia in Genesi 3,15 sia in Apocalisse 12 noi vediamo che la lotta di Satana nei confronti di Cristo è sempre la lotta di Satana contro Cristo e la donna. Questa donna è la donna che genera Cristo. In Genesi 3,15 si dice fra la sua stirpe, la stirpe della donna e la tua stirpe, e qui invece si parla del figlio nato dalla donna. Quindi vedete come l'odio di Satana contro Cristo coinvolge necessariamente anche la donna vestita di sole secondo l'immagine dell'Apocalisse dalla quale Cristo nasce. Ecco perché, anche se il duello, il grande duello, è fra Cristo e Satana, è giusto, quello che è nella tradizione della Chiesa, che vede appunto la donna da una parte e Satana dall'altra. La donna è la Madonna, è Maria ed è naturalmente la Chiesa insieme a Maria. Perché non dimenticate mai, cari amici, che, che Maria è la parte più bella, più santa della Chiesa. Quindi c'è Satana da una parte, dall'altra c'è Cristo, Maria e la Chiesa. E quindi l'odio di Satana, attenzione cari amici, coinvolge Cristo, Maria e la Chiesa. L'odio implacabile di Satana è rivolto contro Cristo, Maria e la Chiesa. L'Apocalisse qui è chiara, insomma, il drago cerca di divorare il figlio nato dalla donna, la donna qui nell'Apocalisse capitolo 12 è Maria e la Chiesa, e non riuscendo a divorare il bimbo, perseguita, si avventa contro la donna, cioè contro Maria e la Chiesa. Quindi questa inimicizia fra Satana e Cristo va vista appunto in questo quadro più complesso, cioè un odio che riguarda Cristo, figlio di Dio, riguarda Maria che l'ha generato e riguarda la Chiesa. Dunque, parlavamo del testo dell'Apocalisse, capitolo 12, versetto 4, no? Dove si dice che il drago rosso, l'enorme drago rosso, si pone davanti alla donna mentre sta per partorire, per divorare il bambino appena nato. Dunque, Satana che cerca di divorare Cristo e la Chiesa non è certo una concessione dall'autore biblico all'immaginario religioso, ma è la vera percezione, la vera descrizione di quella lotta senza quartiere che l'angelo ribelle ha dichiarato a Dio e a Dio suo creatore. Ecco dunque come è stupida qualsiasi sottovalutazione di Satana che noi facciamo, o anche qualsiasi modo di presentare Satana come, non so come dire, un povero diavolo, come qualcuno che non è nocivo. Vedete con quale descrizione ci dà l'Apocalisse, questo enorme drago rosso che è animato da una furia distruttrice e cerca di divorare Cristo, Dio, e perseguita, e cerca di divorare anche la donna, che Maria e la Chiesa. Quindi vedete come alla luce della parola di Dio è ben evidenziata questa lotta senza quartiere che l'angelo ribelle ha dichiarato a Dio suo creatore. Naturalmente Satana odia Maria perché è la madre di Dio, odia la Chiesa perché è la Chiesa di Cristo. Qual è la radice ultima, profonda di questo odio di Satana? Ci sono molte ipotesi al riguardo. Alcuni dicono che appunto Satana, l'angelo ribelle, fu geloso di Dio, non vuole sottomettersi a Dio, voleva lui essere Dio al posto di Dio. Ci sono anche altre ipotesi, per la verità, da parte degli autori classici. Alcuni affermano che Satana si sarebbe ribellato al progetto dell'incarnazione. Altri autori, specialmente alcuni autori mistici, dicono che Satana si sarebbe rifiutato di accettare Maria, regina degli angeli. Sono tutte ipotesi che comunque mettono in evidenza un dato che è certo, e cioè tutte le varie ipotesi che si fanno sulla motivazione per cui Satana si è ribellato, per cui l'angelo più luminoso si è ribellato, tutte queste ipotesi però hanno un dato comune, e cioè tutte sono d'accordo nell'indicare nella superbia la molla che ha fatto scattare la ribellione. Satana fosse rifiutato, dicono alcuni, di cooperare al piano di Dio che prevedeva l'incarnazione, e quindi la sua sottomissione al Verbo incarnato e a sua madre, questa è l'ipotesi di alcuni autori spirituali, rimane un'ipotesi. È difficile avere certezza al riguardo, perché è chiaro che noi non possiamo conoscere se non i dati che la Bibbia ci offre, quindi se non la rivelazione divina. Tuttavia c'è un passaggio dal Vangelo, a mio parere, che getta un fascio di luce sull'origine dell'odio satanico. Si tratta del brano delle tentazioni, dove davanti alla luce di Cristo Satana manifesta i suoi pensieri più reconditi. Cioè, io vi ho già in qualche modo accennato qual è la mia ipotesi per cui, per quale motivo Satana si è ribellato, per quale motivo Satana odia Dio. La mia ipotesi è questa, è che lui non ha accettato, non sopportava che ci fosse un Dio al di sopra di lui. Ma questo accade in tanti uomini, che sono atei perché non sopportano di non essere loro Dio al posto di Dio. Satana, a mio parere, non sopportava di essere Dio al posto di Dio. Questo è il motivo per cui si è ribellato, per cui è diventato il maligno. C'è una traccia in questo, già nel nome di Michele, l'arcangelo che si oppose a Lucifero, perché Michele vuol dire chi è come Dio. Quindi è come se Satana volesse essere al posto di Dio. E poi anche c'è un altro testo biblico che insinua questa interpretazione, laddove appunto Satana insinua, dice ai genitori, ai progenitori, ad Adamo ed Eva, se ne mangerete diventerete come Dio. Quindi lui voleva diventare come Dio, voleva essere al posto di Dio. Però c'è un testo, a mio parere, ancora più chiaro, che ci aiuta a capire la genesi dell'odio satanico. Ed è il testo delle tentazioni, che troviamo sia in Matteo sia in Luca, dove Satana pretende l'adorazione al posto di Dio. Allora, vi ho detto, in nome di Michele, chi è come Dio? Il veleno satanico iniettato nei progenitori, se ne mangerete sarete come Dio. E poi... E la frase di Satana a Cristo, tutte queste cose io ti darò, se prostrandoti mi adorerai, sta a indicare la sua sete di essere Dio al posto di Dio. Questo, a mio parere, è la molla che ha fatto scattare, la molla da cui è nato il male, la molla che ha pervertito Satana e l'ha fatto diventare colui che odia Dio con tutte le sue forze, perché voleva e vuole essere lui Dio al posto di Dio. Dopo aver portato Gesù sul Monte Altissimo e dopo avergli mostrato tutti i regni del mondo con la loro gloria, gli disse: tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Ma Gesù gli disse: vattene, Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. Capito? Qui c'è chiaramente la radice dell'odio satanico, vuole essere Dio, vuole essere adorato al posto di Dio. Qui possiamo ben dire che Satana è messo a nudo, come in nessun'altra parte della scrittura. Qui vengono svelati la sua sete profonda e il suo tormento inestinguibile. Satana vuole essere adorato, non accetta di essere soltanto una creatura, e non sopporta che un altro e non lui stesso sia Dio. La sua tortura consiste nel non potersi proclamare Dio, ma tuttavia cerca di placare la sua sete circuendo le creature e chiedendo la loro adorazione. Quindi, cari amici, a mio parere, però un parere suffragato dalla scrittura, non nasce l'odio satanico non nasce in primo luogo dalla gelosia nei confronti dell'uomo, ma nei confronti di Dio stesso. Satana è invidioso di Dio. Siccome l'invidia è omicida, lo vuole annientare. Non potendolo fare, ecco che lo sfida, cercando di rapinargli le creature e opponendosi con tutte le sue forze al disegno grandioso della creazione della redenzione. Nel suo regno di morte, egli pretende l'adorazione e la sottomissione assoluta. Ma quanto deve tormentarlo dover riconoscere che la potenza non è sua, ma è di Dio, di Cristo, di Maria e della Chiesa. E qui lo vedono gli esorcisti. Quanto Satana grigna i denti dovendo riconoscere che la potenza non è sua, ma è di Cristo, di Maria e della Chiesa. non pensare che il drago tenga questo veleno dentro di sé. Egli lo inocula abbondantemente nelle vene degli uomini. Come spiegheresti infatti le grandi ribellioni nei confronti di Dio che caratterizzano alcuni periodi della storia, in particolare il nostro tempo? Questo progetto che cova nel ventre dell'umanità di voler costruire un mondo senza Dio, in cui l'uomo sia signore e redentore di se stesso, non è stato forse deposto dal serpente antico? E da dove viene questo desiderio degli uomini di primeggiare, di essere venerati o onorati, di signoreggiare e di dominare gli altri, come se fossero dei piccoli dei? Ogni creatura spirituale, dotata di intelligenza e volontà, sia essa angelo o uomo, è posta dinanzi una scelta radicale, che imprime una direzione ben precisa al suo essere e al suo agire. Si tratta, cari amici, e questa è una scelta che dobbiamo fare anche noi, di scegliere fra Dio e il proprio io. Chi si decide per Dio, accettando di essere una creatura dipendente, entra nella luce della grazia e riceve in dono la partecipazione alla natura divina. Chi decide per il proprio io, illudendosi di eliminare Dio, entra nella tenebra dell'autoesaltazione e della morte spirituale. In questo sta la menzogna di Satana e dei suoi seguaci che, essendo creature, negano la dipendenza e l'obbedienza, rivendicano una libertà assoluta e pretendono l'adorazione. Ecco dunque, cari amici, che abbiamo cercato di capire qual è la radice stessa del maligno, la sua sete di essere Dio al posto di Dio, e non potendo il suo odio nei confronti di Dio, e la sua sete di adorazione che, e quindi questo odio lo rivolge contro Cristo, contro la Chiesa, contro Maria, e come inietta questo veleno negli uomini che a loro volta rifiutano Dio e pretendono di essere loro Dio al posto di Dio, di costruire un mondo senza Dio e esaltano il proprio io. Ecco, questo è il veleno satanico che il serpente inietta nelle vene degli uomini. Dunque abbiamo visto, cari amici, come è generato l'odio contro Dio nel demonio, è generato dall'invidia, dalla gelosia, che non è lui Dio. Abbiamo visto come in lui ci sia l'arsura, la pretesa di essere adorato. Nel prossimo appuntamento vedremo come l'odio contro Dio spinge Satana a opporsi a tutti i piani che Dio realizza nel corso della storia per salvare l'uomo. Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso Il Falesario, a cura di Padre Livio. Edizioni Sugarco.